ho sempre avuto un quoziente di intelligente leggermente superiore alla media, diciamo. Ora, così la cagarella degli esami, eccola là, che ma tu chiedi a me i due movimenti, ma se te lo dico chiedi a me che so. Intanto la promuovo e lei ufficialmente fa parte del corso di laurea in medicina e chirurgia perché fa tutto superflusso. Me la laurea qua sul campo? Un bel prende lode se lo merita. Come mai sole non... Quindi io in questo momento sono un pochino più intelligente di Deborah Rosciani e con questa così. E con questa... Se qualcuno chiede a me cosa mai è l'R3... Qua ti volevo, cara mia, però ti posso dire... che cade l'asino. No, non sei un asinello, dai. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. A scuola con un click ci siamo di nuovo, è arrivato il momento di compiere un passo importante per i nostri figli, un passo che potrà essere forse anche determinante per il loro futuro. Dal 15 gennaio al 15 febbraio è tempo di compiere l'iscrizione a scuola, lo ha stabilito una circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, la numero 51 dello scorso 18 dicembre, che ha fissato un mese di tempo per le iscrizioni alle prime classi della scuola primaria, media e superiore per l'anno scolastico 2015-2016. Ricordiamo che è da circa 2 anni che, secondo quanto ha disposto la legge sulla razionalizzazione della spesa pubblica, le iscrizioni alle prime classi sono online. Le procedure dovrebbero essere semplici, ma tuttavia abbiamo scoperto anche lo scorso anno, quando abbiamo organizzato una trasmissione sullo stesso argomento, per qualche mamma e qualche papà qualche problemino c'è. Allora, Cuore Denari vi spiega oggi la procedura, cosa fare se il meccanismo si inceppa proprio mentre stiamo compilando l'iscrizione, a chi chiedere aiuto e quindi tutti gli aspetti pratici di questa operazione. 800 24 00 24, iniziate a prenotare le vostre domande se state già preparandovi a questa operazione. E sì, restate con noi, perché che si tratti della materna, della primaria, delle medie o delle superiori, lo stress e l'incertezza sono comuni a quasi tutte le famiglie, perché iscrivere i propri figli ad una scuola, beh, lo sappiamo bene, non è solo compilare un modulo online, questo direi è il passaggio finale. L'iscrizione, lo sappiamo, per poter essere proprio espressione di una scelta davvero libera, consapevole, non può prescindere da un lavoro preparatorio che prevede la raccolta di informazioni sull'istituto scolastico scelto, quindi questo dal piano dell'offerta formativa ai tanti aspetti della sua identità oltre che della sua attività. Ma non basta, perché poi bisogna anche fare i conti con i diretti interessati e naturalmente con le loro attitudini, le loro fragilità, i loro sogni, le loro aspettative, i loro successi e i fallimenti. Allora, se avete figli in età scolare, chiamateci per raccontarci come vi state organizzando. Avete già deciso? Avete fatto scegliere a vostro figlio o avete scelto voi per lui? 800 24 00 24, chiamateci per parlare di iscrizione, ma anche di pagelle, belle o brutte, arrivano per tutti. Ogni famiglia tra l'altro vive questo momento in modo diverso, noi ci faremo aiutare dai nostri esperti per affrontarlo in modo positivo e costruttivo con i nostri figli. Suona la campanella e ci ricorda di ci ricorda a me Nicoletta che dobbiamo segnalarvi, prima di entrare nel dettaglio del tema di oggi, che Radio 24 è in programma di seguire con molta attenzione tutta l'operazione di accreditamento al Ministero e poi preiscrizione scolastica. E oltre a Cuore Denari di oggi vi segnalo questa data, mettetevela anche voi per iscritto: giovedì 15 gennaio dalle 22 alle 23 c'è lo speciale scuola quale superiore per i nostri figli con la nostra Maria Piera Ceci e la collaborazione del quotidiano digitale del Sole 24 Ore Scuola 24. Quindi, oltre ad utilizzare lo stesso numero verde 800 24 00 24 per chiamare noi stamattina e per chiamare Maria Piera giovedì 15 gennaio, se volete scrivere delle mail potete utilizzare anche questo indirizzo: scuola@radio24.it. Però scrivete anche stamattina al 349 238 6666. su Facebook o su Twitter, insomma per tutte queste giornate noi vi daremo una mano, speriamo, ad orientarvi, visto che poi tra l'altro anche la parola orientamento è centrale in tutto il nostro ragionamento di stamattina in questa operazione. Allora diteci se siete fra chi dovrà effettuare l'iscrizione, per quale classe, se avete già deciso, quali sono i vostri dubbi nella scelta in sé e anche sulla modalità per effettuarla. Vi preoccupa la procedura online? Avete già deciso quando vi metterete a farla? C'è un mese di tempo. Vorrete togliervi subito il pensiero o aspettate qualche giorno? Vi ricordiamo appunto che c'è tutto il mese. 800 24 00 24 per tutti questi dubbi. Allora il primo ospite che ci aiuta a rispondere oggi è la dottoressa Gianna Barbieri, dirigente dell'Ufficio Statistico del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, che salutiamo. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti, buongiorno. Benvenuta lei. Tra poco ci raggiungerà anche la dottoressa Elena Tazzioli, psicologa e psicoterapeuta della famiglia, con la quale affronteremo anche dal punto di vista non solo dei ragazzi ma anche dei genitori e della famiglia un importante banco di prova come quello della scelta della scuola di secondo grado. E ci raggiungerà anche Francesca Barbieri, Deborah del Sole 24 Ore, che proprio oggi firma su questo tema una pagina con tutte le indicazioni per effettuare correttamente questa domanda. Il titolo del pezzo lo anticipo già: iscrizioni a scuola, 1,5 milioni di famiglie al primo appello. Da oggi le registrazioni al portale del Ministero. Proprio di questo che vogliamo parlare con la nostra ospite, appunto con la dottoressa Barbieri, peraltro guarda tu che caso, lo stesso cognome, no? Anche la dottoressa Barbieri del Ministero si è stupita di questo. Allora torniamo a ricordare, anzi cominciamo subito ricordando le tempistiche e gli ordini di scuole coinvolte, dottoressa. Allora per tutte, no? L'operazione di accreditamento inizia oggi, l'operazione di accreditamento al Ministero, che è cosa diversa rispetto alla iscrizione all'istituto che verrà prescelto. Sì, esattamente, dalla mezzanotte di oggi è possibile effettuare la registrazione al portale delle iscrizioni online e dal 15 gennaio fino al 15 febbraio può avvenire l'iscrizione. Gli ordini di scuola coinvolti sono dalla scuola primaria, dal primo anno della scuola primaria, primo anno della scuola secondaria di primo grado, che tutti comunemente chiamiamo scuole medie, e poi per il primo anno delle superiori. È esclusa l'infanzia e sono escluse tutte quelle scuole paritarie che non hanno aderito al sistema delle iscrizioni online. Allora, ricordiamo che da 2 anni questa è una procedura obbligatoria, si deve passare esclusivamente attraverso il portale del Ministero, dottoressa Barbieri. Assolutamente sì, è la procedura obbligatoria prevista per legge e quindi tutte le famiglie sono tenute a effettuare l'iscrizione online tramite il portale. Stavo pensando alla domanda su quante famiglie dovranno essere gestite. Perché in questa operazione abbiamo già detto 1,5 milioni. Sì, un'anticipazione infatti avevi già detto della nostra collega che aveva già dato un po' un quadro del volume dei dati. Esatto, allora perché è necessario fare anche questo accreditamento, dottoressa Barbieri, al sito del Ministero? E le chiedo, occorre farlo prima oppure si può fare tutto contestualmente, fare l'accreditamento al sito del Ministero, una volta completata l'operazione si può fare la preiscrizione all'istituto prescelto, oppure è necessario appunto fare l'accreditamento al Ministero perché poi voi date un via libera e successivamente si fa la preiscrizione? Allora, per effettuare l'iscrizione vera e propria occorre effettuare ovviamente la registrazione, diciamo è un passo che va effettuato necessariamente. La registrazione può essere effettuata immediatamente e immediatamente poi procedere all'iscrizione vera e propria. Tra l'altro, diciamo, una volta effettuata la registrazione e avendo iniziato a compilare domanda, si può uscire dal portale e compilare la domanda anche successivamente, quindi non è necessario effettuare tutto insieme. Senta, per fare tutte queste operazioni di quali documenti hanno bisogno mamma e papà da tenere appunto sotto mano per poterla completare in maniera corretta insomma, e anche veloce possibilmente? Secondo lei è complicato? Quanto insomma, ci si mette anche di tempo? Dall'esperienza avuta lo scorso anno? Sì, allora la registrazione così come la compilazione della domanda richiedono veramente poco tempo. Per effettuare la registrazione occorre avere il codice fiscale, un indirizzo di posta elettronica, eventualmente anche un secondario indirizzo per ricevere le comunicazioni e poi anche il documento d'identità, questo in fase di registrazione. I dati della scuola? Allora, per poi effettuare l'iscrizione occorre ovviamente conoscere qual è l'istituzione scolastica presso la quale ci si vuole iscrivere, e per trovare l'istituzione scolastica e per capire quali sono le principali caratteristiche abbiamo messo in linea quest'anno la nuova applicazione di Scuola in Chiaro, che consente una ricerca molto più agevole della scuola dove sono presentate le principali caratteristiche. Che cos'è Scuola in Chiaro, dottoressa Barbieri? Chiariamolo bene. È un'applicazione accedibile dal portale dell'iscrizione online, lo vedete, è in alto a destra, attraverso la quale è possibile effettuare, proprio mettendo anche semplicemente il nome della scuola e la città, effettuare la ricerca della scuola. E nella pagina che si apre di Scuola in Chiaro è possibile individuare anche il codice della scuola, che è il codice richiesto per la fase di iscrizione. Benissimo. Senta, adesso passeremo alle domande, che sono già tante da parte degli ascoltatori che ci chiamano e scrivono. Per chi non ha internet a casa, come deve fare? Per chi non ha internet può recarsi tranquillamente presso la scuola o di destinazione o quella presso la quale si sta frequentando, e comunque tutte le scuole sul territorio sono tenute a dare assistenza alle famiglie, e quindi ci si può recare tranquillamente presso qualsiasi scuola per effettuare l'iscrizione. Tenga conto che lo scorso anno l'adesione da parte delle famiglie al sistema di iscrizione online ha riguardato circa il 70% delle famiglie, con punte in alcune regioni che superavano anche l'80%, facciamo il caso di Lombardia, Friuli, Veneto, Emilia Romagna. Pertanto siamo confidenti abbastanza che quest'anno le famiglie possano accedere ancora di più a questo sistema. Ottimo. Dottoressa Barbieri, Silvia al 349-238-6666, così ricordiamo il nostro numero per inviare i messaggi, ci scrive: in realtà è una prescrizione quella online, poi bisogna pagare il bollettino in posta e presentare in segreteria tutto il cartaceo. Così è successo l'anno scorso. E allora vorrei chiederle, dottoressa, rispetto alla procedura dell'anno scorso, ci sono delle differenze? Avete migliorato delle cose, magari anche a partire dalle criticità segnalate dagli utenti? Ma quest'anno c'è la novità fondamentale dell'estensione dell'iscrizione ai centri di formazione professionale che hanno riguardato alcune regioni che hanno aderito al sistema dell'iscrizione online: Lombardia, Veneto, Piemonte, Molise e Basilicata. Questa è la principale novità, oltre a quelle dicevo prima del rinnovo del portale della Scuola in Chiaro. E a che cosa serve appunto questa rosa di centri di formazione professionale? Sì, allora nelle regioni che abbiamo detto è presente il sistema di formazione professionale, quindi gli studenti possono iscriversi presso le agenzie formative che sono gestite dalle regioni stesse, e proprio su richiesta di alcune regioni che è avvenuto lo scorso anno abbiamo deciso di estendere questo sistema anche ai centri di formazione regionale, e quindi il vantaggio per gli studenti che vogliono iscriversi a un sistema piuttosto che un altro è quello che possono utilizzare appunto il sistema dell'iscrizione online, sia per l'uno che per l'altro sistema. Allora, abbiamo anche degli ascoltatori al telefono, e quindi da chi cominciamo? Io inizierei da Luca. Stefano, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno, vi ringrazio di avermi richiamato. Io ho questo quesito. Ho una figlia che vuole frequentare una scuola superiore dove vi è il problema dell'esame di ammissione, quindi c'è la possibilità che possa non essere ammessa a questa scuola. Sì. Volevo sapere se era possibile quindi fare due prescrizioni a questa qui e in secondo ordine a una seconda scuola, certo. Sì. Stefano, la ringrazio. Dottoressa Barbieri, a prescindere poi dal fatto che questa scuola abbia un test d'ingresso, un test di ammissione, appunto, magari qualcuno è indeciso e nell'indecisione adesso fa una doppia prescrizione. Si può fare? Allora, innanzitutto, per sgombrare il campo dei equivoci, vorrei sottolineare che non si tratta di preiscrizione, si tratta di un'iscrizione vera e propria. E comunque, le famiglie al momento della compilazione della domanda possono indicare 3 scuole, sappiamo che diciamo, la domanda può essere presentata, ma che le scuole hanno limite di capienza per accogliere gli studenti proprio in termini di spazi, quindi nel caso in cui diciamo, non ci sia possibilità di accoglimento della domanda, la scuola può inoltrare in una fase successiva la domanda alla seconda scuola indicata dalla famiglia. Allora, c'è il problema però che, come lei sa, dottoressa Barbieri, molte scuole richiedono i famosi contributi volontari per sostenere tutta una serie di attività scolastiche. Sappiamo bene che i bilanci appunto delle scuole sono molto magri e quindi in moltissime chiedono questo contributo aggiuntivo ai genitori, che più che volontari, abbiamo visto negli anni passati quante trasmissioni, Nicoletta, abbiamo fatto, sono in realtà semi obbligatori, perché molto spesso condizionano proprio anche la possibilità di iscriversi nelle scuole stesse. Una persona nella iscrizione scolastica fatta attraverso il vostro portale indica 3 scuole, 3 scuole chiedono i contributi per farla fare, una famiglia deve pagarli tutti e 3? No, allora io su questo posso solamente ribadire un concetto, e cioè che i contributi scolastici delle famiglie sono assolutamente volontari. Su questo già nel 2012, nel 2013 il Ministero ha avuto modo di dare indicazioni in questo senso, facendo seguito poi tra l'altro a quanto è stato previsto da una legge finanziaria, che se non ricordo male la legge finanziaria del 2007, la legge 296. Sì. Le scuole comunque devono tenere ben distinti i contributi volontari dalle tasse scolastiche, che al contrario sono obbligatorie, ad eccezione dei casi di esonero in relazione al reddito. E comunque il contributo non può comunque riguardare le attività curricolari. Quindi, a parte per i contributi, allora lei mi dice che in ogni caso, come sappiamo, si devono pagare queste tasse scolastiche e versarle. La domanda allora è la stessa: per una persona che individua 3 opzioni, paga le tasse scolastiche in 3 scuole per fare un'iscrizione e poi sceglie successivamente la scuola nella quale mandare il suo bambino, suo figlio? No, questo avviene solamente a conclusione dell'iscrizione, quando la famiglia riceve il messaggio per cui l'iscrizione è avvenuta con successo, è conclusa, e poi si recherà presso la scuola per effettuare, diciamo, il perfezionamento della domanda. A proposito di domande, abbiamo Giuseppe che ci chiama da Milano. 800 24 00 24, benvenuto. Sì, pronto, buongiorno, grazie per avermi chiamato. Allora, io ho un quesito, l'anno prossimo andrò a vivere a Milano, adesso vivo nell'Interland. Dovrei iscrivere i ragazzi a scuola in un nuovo istituto vicino a casa. Posso farlo essendo non essendo residente attualmente a Milano, ma molto più vicino a Pavia, e non vorrei che l'istituto che vada a scegliere poi il Ministero automaticamente mi attribuisce a una seconda scelta, a un istituto professionale o liceo di Pavia? Giuseppe, la ringrazio. Grazie. Ma ci sono molte famiglie che hanno dei figli che magari vivono, cioè famiglie magari che vivono, uno vive nell'Interland e viene a scuola a Milano. Infatti, quindi ma, dottoressa Barbieri. Sì, no, la scuola accetta tutte le domande, quindi viene creata una lista da parte delle scuole. Ovviamente possono essere utilizzati dei criteri di priorità, e questo, diciamo, avviene da parte delle scuole dopo che questi criteri sono stati stabiliti dal consiglio d'istituto. Quindi questo dipende dalla scuola, insomma, che riceve l'iscrizione. Però effettivamente stamattina Francesca Barbieri del Sole 24 Ore, che tra un po' magari interpelleremo su questo aspetto non appena appunto arriverà in studio, specificava che questa iscrizione non è un click day, nel senso che non verrà poi stabilita una graduatoria delle famiglie che ha fatto l'iscrizione appunto alla scuola prescelta. Però se una scuola riceverà moltissime domande, magari non potrà accogliere tutti gli studenti, Francesca scrive, i conti si faranno alla fine, e le corsie preferenziali saranno ad esempio per chi abita vicino al plesso e per i genitori che lavorano. Assolutamente, come le dicevo prima, ribadisco questo, ci sono dei criteri che vengono stabiliti dalla scuola, dal consiglio d'istituto, perché vengono tra l'altro esplicitati dalla scuola, quindi in caso di incapienza da parte della scuola vengono applicati questi criteri. Quindi magari è bene informarsi. No, assolutamente, ecco, sì. Quindi se abbiamo il dubbio che magari quella però scuola sarà che, particolarmente gettonata, cerchiamo di capire anche poi con quale criterio verrà accolta la propria domanda. Comunque voglio precisare, sì, tra l'altro, che appunto è bene evitare momenti di sovraffollamento del sistema nell'effettuare l'iscrizione tutti il primo giorno, il 15 o anche l'ultimo giorno, perché comunque il criterio temporale non è un criterio che viene utilizzato da parte delle scuole. Benissimo. Tanto per darvi un'idea, le registrazioni effettuate dopo la prima mezz'ora, dopo la mezzanotte, erano 546. Stanotte avete già monitorato. Genitori insonni. All'1:30 700, e vi dico che per dare il dato alla trasmissione, adesso siamo circa 20.000 registrazioni, quindi il processo va avanti ed è molto. Altro che, aspita, cioè da stanotte erano 500 e sono già 20.000. Assolutamente. Incredibile. Sì. Dottoressa Barbieri, noi le auguriamo buon lavoro, naturalmente speriamo che tutto si svolga serenamente, ma questo sicuramente sarà così. Ci non mettiamo tutto nel nostro impegno. Ecco, nel caso noi le diamo subito un colpo di telefono. Esatto, dottoressa. Ci dica un po', se nota delle criticità, chieda pure il nostro aiuto e noi le comunicheremo naturalmente alle nostre famiglie all'ascolto. Assolutamente, va bene, vi ringrazio. Grazie molte. Cuore e denari. Ci dicevano, insistevano di studiare, che da grandi ci sarebbe stato utile sapere le cose che a scuola andavamo a imparare, che un giorno avremmo dovuto anche lavorare. Eccoci qui, pronti ad orientarci. Voi siete pronti? Chiamateci. Facciamo un po' insieme le prove generali per l'iscrizione, che come sapete si potrà effettuare online da giovedì prossimo 15 gennaio per un mese, ma da oggi è già possibile la pre-iscrizione, mettiamo così tra virgolette. Queste procedure ci prenderanno un po' di tempo, ma attenzione, prendiamoci anche il tempo per fare tutte le valutazioni del caso. La fretta, lo sappiamo bene, è sempre una cattiva consigliera, per questo se avete dubbi fatevi aiutare dai nostri esperti. 800 24 00 24. A volte noi genitori dobbiamo fare un passo indietro e invece che concentrarci sulle nostre aspirazioni, dovremmo provare a guardare con occhi obiettivi, e questa è la cosa più difficile perché ogni scarrafone Guardare con occhi obiettivi il nostro figlio, valutare anche le sue competenze, le sue attitudini, cercando un po' di capire che cosa vorrebbe fare e in che cosa può riuscire, e quindi qual è la richiesta e la scelta giusta per lui. Perché sbagliare poi indirizzo sono 5 anni duri, esatto. Molto duri. È vero che si può tornare indietro, ma cerchiamo di fare, no, le cose per bene. Vivere poi anche sempre con il rimpianto, magari, di non aver fatto quello che ci piaceva davvero, averlo scoperto tardi, insomma, c'è tutta una serie di interrogativi che allora si pongono. E qua in studio con noi ci ha già raggiunto la dottoressa Elena Tazzioli. Buongiorno. Buongiorno. Psicologa, psicoterapeuta della famiglia, presidente dell'associazione Speira, che è un'associazione che cura progetti educativi sul territorio di Milano e che naturalmente, a proposito di online, ha anche un sito. Sì, si chiama www.speira.it. Allora lei ci darà una mano e guarderà, penserà al cuore, a tutte quelle preoccupazioni, le ansie, i dubbi che ogni genitore sta affrontando nel momento in cui deve decidere per una scelta così importante, esatto, per il proprio figlio, che davanti sappiamo a quel sono pezze core. Mamma mia. Va bene, ma noi siamo qui. Scuola rap, oggi dovremmo parlare di una scuola web, che ne dici? Tutte queste domande, tutte queste così un po' definizioni magari complicate per qualche famiglia, perché c'è qualcuno che effettivamente contesta il fatto che questa iscrizione vada fatta prevalentemente online. Allora, ci ha spiegato prima anche il Ministero che in realtà la procedura preferita è questa. Se poi una famiglia non ha internet a casa, non ha il computer, ha deciso di non utilizzare queste modalità per collegarsi con il mondo, può andare tranquillamente a scuola. Esistono delle segreterie scolastiche nelle vecchie modalità che sono pronte a supportare tutti quanti. Allora, noi stiamo parlando di tutto questo. Non dimentichiamoci lo speciale di Radio 24, speciale appunto con Maria Piera Ceci, giovedì 15 dalle 22 alle 23. E oggi anche il Sole 24 Ore dedica una pagina alla procedura di iscrizione online. online al prossimo anno scolastico. Ti abbiamo stralanciato, Francesca Barbieri, benvenuta, eccoci qua. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, molto che non rapidamente sei parente della Gianna Barbieri, perché lo stiamo per... No, no, assolutamente no. Allora, ci illustri un po' che cosa avete raccontato sulla pagina del Sole di oggi. C'è proprio l'ABC di questa, sì, certo, prescrizione, accreditamento e poi iscrizione formale, perché qua vanno usate anche le parole giuste, sì, per ogni, certo, momento dell'operazione. Allora, la pagina sul Sole di oggi è una sorta di mini guida per le iscrizioni online. L'obiettivo è spiegare come si fa a iscriversi, quali sono i passaggi da fare e quali errori evitare. Ricordo anche che su Scuola 24, il quotidiano digitale del Sole 24 Ore dedicato alla scuola, ci sono tutte le risposte ai dubbi dei genitori che sono state realizzate in collaborazione con gli esperti del Ministero dell'Istruzione. Quindi una possibilità in più in caso di dubbio è consultare questo nostro quotidiano digitale. Mm. Certo. Poi faremo magari passo passo insieme la simulazione radiofonica, mi inventiamocela, piace, un po' così, a partire dalla preiscrizione che è possibile da oggi fino alla conclusione della procedura. Tutti i passi che faremo. Direi però di cominciare a sentire anche la nostra psicologa. Sì, no, sì, certo, certo. Volevo sentire prima il nostro ascoltatore che ci sta aspettando da un po', Maurizio, che ci chiama da Vicenza. Buongiorno Maurizio. Buongiorno. Buongiorno Maurizio. Sì, lei torna sul problema del computer, vero? Non so. E non solo. Non solo, perché i problemi fondamentali quando si sceglie la scuola dei figli, per quanto si possa, ogni scarafone, bella mamma sole, come ha detto lei giustamente, ma io penso che in terza media è ancora presto fare una scelta di scuola. Allora, basterebbe fare, come in tante parti del mondo, il biennio uguale per tutti, ossia un biennio di formazione base. E poi terza, quarta e quinta tu decidi cosa vuoi fare. Questa è la proposta di Maurizio. Possiamo raccogliere anche le proposte dei genitori che ci stanno ascoltando. Tornando all'iscrizione online, la vedo mettere obbligatorio di fare l'iscrizione online quando non tutti, non tutte le scuole, il 70% delle scuole non sono neanche informatizzate, immaginiamo, quindi, poco. Sì, però la segreteria, Maurizio, quantomeno ha la capacità di accogliere le domande da parte delle famiglie ed eventualmente sostituire la famiglia nella procedura telematica. Però se lei ascolta bene quello che ha detto la dottoressa Barbieri prima, ha detto che è obbligatorio fare l'iscrizione online. Eh sì. Sì, però le ribadisco, se lei non ha internet a casa può rivolgersi alla segreteria della scuola e la fanno, insomma, loro da lì, la lasciano a casa. Ecco qua. È vero però, come sottolineava Maurizio, che il passaggio alla scuola secondaria viene in un momento delicato, quello della preadolescenza, che è il periodo meno adatto per le decisioni a lunga scadenza che riguardano il proprio futuro. Questo è un aspetto con cui è importante fare i conti. Dottoressa Tazzioli, iniziamo da qui. Ci sono alcuni ragazzi, alcune ragazze che hanno le idee abbastanza chiare, sono in grado di prendere una decisione senza particolari ripensamenti, ma la maggior parte mostra notevoli incertezze di fronte a una scelta che è vero, condizionerà il loro futuro. C'è allora chi chiede aiuto ai genitori, chi tende a fare quello che fa l'amico, sai, l'amico del cuore, chi invece sceglie in autonomia lasciandosi guidare dalle proprie aspirazioni, no? Magari tante volte scegliendo la strada più facile. Che cosa ci raccontano, dottoressa Tazzioli, questi diversi modi di affrontare la decisione? Intanto chiediamo un po' ai nostri ascoltatori se stanno facendo questo passo oppure se l'hanno fatto negli anni passati, che cosa ha aiutato i loro figli e che cosa non farebbero tornando indietro. Allora, sicuramente questo è un tema particolarmente sentito da parte dei genitori. La fase che stanno attraversando i ragazzi intorno ai 12, 13, 14 anni è una fase sicuramente delicata ed è caratterizzata da un compito evolutivo molto impegnativo, quello della costruzione della propria identità. Eh sì, certo. È una fase che però deve passare e lo si fa anche a proprio modo. Ogni ragazzo cerca il modo più adatto a lui per attraversarla. E ogni modo è diverso da ragazzo a ragazzo. C'è chi è più incline alle relazioni, quindi cerca la scuola che lo possa portare a stare vicino all'amico. C'è chi è più incline alle proprie passioni e ai propri talenti. E ovviamente sarà, diciamo così, il ragazzo più facile, quello cosiddetto più facile, quello più deciso e determinato. Certo è che ogni modo cambia da ragazzo a ragazzo. Come genitore la cosa che possiamo fare è aiutarlo a prendere consapevolezza di quello che lui sta mettendo in campo, del proprio modo che sta utilizzando per fare la propria scelta. E se noi riflettiamo, ci rendiamo conto che dietro la compilazione di quel modulo ci sono un po' di pensieri da fare. Noi ci rendiamo conto che dobbiamo, insomma, barcamenarci con le nostre aspettative di genitore, con le nostre aspirazioni di quando eravamo ragazzi. Magari ci sono genitori che dicono: io avrei voluto fare questo, non l'ho fatto, allora suggeriscono al figlio di intraprendere quella scelta. E anche ci fanno fare i conti con il rapporto che abbiamo con i nostri figli, che inizia nella fase della preadolescenza, inizia ad essere un periodo in cui, no, ci si prende reciprocamente, dico reciprocamente, con le molle. Dottoressa Tazzioli, lei che si occupa di adolescenti, di famiglie, la costruzione di identità passa proprio da lì, dalla sfida e dall'andare contro rispetto alle indicazioni che sono sempre state date dal genitore. Quindi diciamo che è un po' un processo naturale quello che il ragazzo mette in atto, quello di andare contro a un'aspettativa, a un dettame che il genitore gli ha sempre dato. Certo è che il genitore più si accanisce contro questa sfida e più il ragazzo si accanirà nell'andare contro. Il genitore credo che in questa fase debba fare un passettino indietro. È qua che inizia il percorso di responsabilità che anche a 13 anni è necessario che i ragazzi imparino a fare. Allora, un passettino indietro, un passettino avanti o di fianco, dove siete? 800 24 00 24, raccontatecelo al nostro numero verde. Allora, abbiamo degli ascoltatori, adesso prima di sentirli, si sono candidati Roberta dalla provincia di Bari, Simone da Prato. Volevo tornare appunto con Francesca Barbieri a questa accreditamento che parte oggi e iscrizione a scuola dal 15 gennaio. Chiamiamo le cose come vanno chiamate, se oggi volete definirla una preiscrizione per noi è lo stesso, l'importante è che capiamo che abbiamo due momenti distinti e che poi l'accreditamento al Ministero si può fare anche dal 15 un attimo prima di fare poi chiaramente l'operazione formale di iscrizione alla scuola scelta. Andiamo ai dettagli dei passaggi chiave, come li chiamate oggi sul Sole 24 Ore, Francesca. Quali sono? Partiamo naturalmente dalla conoscenza intanto della scuola dove vogliamo andare. Sì, certo. Allora, la prima cosa è andare sul sito del MIUR alla pagina www.iscrizioni.istruzione.it. Si clicca su iscrizioni online e appare una mascherina, ci sono una serie di dati da inserire. Bisogna inserire i dati del genitore che fa l'iscrizione, quindi nome e cognome, il codice fiscale e un indirizzo email valido. Dopo la conferma dei dati si riceverà alla casella di posta indicata un'email con il titolo iscrizioni online, conferma, registrazione utente, e in questa email c'è un link da cui si può generare la propria password. Quindi la password non viene inviata, va generata. Ok, successivamente arriva un'altra mail dove c'è lo user ID. A questo punto si è in possesso dei due elementi per poter procedere all'iscrizione vera e propria, iscrizione che può essere fatta da giovedì. Quindi nel momento appunto dell'iscrizione bisogna ovviamente inserire il codice della scuola prescelta, è un codice di 10 caratteri, e se non lo si conosce o si chiede alla segreteria della scuola o si può ricercare attraverso Scuole in Chiaro, esatto, dal sito del MIUR. E a questo punto si iniziano a inserire i dati del bambino o del ragazzo. Quindi se l'iscrizione è rivolta a una scuola elementare o a una scuola media, viene subito chiesto di indicare con diverse priorità, fino a un massimo di 3, il tempo scuola. Quindi da un minimo di 24 ore a un massimo di 40 ore settimanali per quanto riguarda le elementari. Se invece l'iscrizione riguarda una scuola superiore, viene chiesto di indicare fino a un massimo di 3 indirizzi di studio. Se ci siamo già accreditati, per esempio, lo scorso anno per iscrivere un altro figlio, le credenziali valgono ancora, Francesca? No, no, non valgono più. Bisogna riniziare tutto da capo. Ogni figlio ha una nuova storia. Se certo. I genitori sono separati, ad esempio, eccola chi lì. Dei due deve iscrivere il ragazzo? Ci si mette d'accordo? Ci si mette d'accordo, però da quest'anno bisogna che il genitore che fa l'iscrizione diciamo dichiari di aver avuto il consenso dall'altro genitore. Quindi deve esserci il consenso. Sì, sì, sì, esattamente. 800 24 0024. Andiamo. Forse ho bruciato la domanda di Roberta da Bari, ma confermeremo quanto già detto. Roberta, benvenuta. Roberta, si è stancata di stare con noi? Pronto? Eccoci. Pronto? Salve, sì, sì, no, sono qua. Ci dica. Salve, buongiorno, grazie. Grazie. Ecco, ho sentito già la risposta, praticamente un accreditamento va completamente rifatto. Esatto, quindi perché lei l'aveva già fatta. Non sono... Perfetto, perfetto, era solo questo, perché è abbastanza intuitivo, non è difficile come diciamo procedura, però ecco, era l'unico dubbio che avevo. Perché lei aveva già fatto... E quale denari l'ha tolto, fantastico, bene, continuate aveva a chiamarci, già, a scriverci. Aveva già fatto le credenziali per l'iscrizione di una prima figlia, quindi chiedeva se poteva accedere per iscrivere la seconda con le medesime credenziali. Per il terzo si fa occhi chiusi. 800 24 00 24, se la ride Carmelo Lauricella, perché lui non le scrive quando ancora, tutti insieme. Anzi, gli tocca, no, forse la prima ormai, forse già ora deve fare la prima elementare. No, prima elementare l'ha già fatta, quindi bene. Allora hai fatto l'iscrizione online l'anno scorso, bravo, bravo, bravo, bravo. Cuore e denari. Guastariti è il primo della classe. E Vivaldi che fa? Mette 6 in italiano e 6 in storia. Ripete la lezione senza pause, tutto quello che mi è uscito di bocca, tutto il fedele rispecchiamento di un anno di lavoro. Alla fine gli metto 8, ma vorrei tagliarmi la coda. Perché ti scuola... aspetti, tagliatela. Ma perché? Ma perché a Stariti è la dimostrazione evidente che la scuola italiana funziona solo con chi non ne ha bisogno. Per capire quanto valiamo veramente noi, dobbiamo misurarci con i Cardini e non con gli Astariti. E noi ci trasferiamo direttamente al liceo, proprio per il suono per lo spazio di un intervallino. In linea con noi abbiamo Alessandro D'Avenia. Ciao Alessandro. Ben ritrovati. Non stiamo a presentare Alessandro D'Avenia, penso, no? Penso che sia superfluo. Allora Alessandro, qua siamo al buono. Scegliere, allora c'è chi pensa agli istituti tecnici, chi al liceo, chi si fa aiutare dal suggerimento, dagli orientamento degli insegnanti delle medie, chi invece preferisce scoprire l'X Factor del proprio figlio e fare l'iscrizione così, valutando le attitudini del ragazzo. Tu i ragazzi li vedi quando arrivano e quindi questo passaggio l'hanno già fatto. Alla luce delle buone esperienze o anche degli sbagli, quali messaggio vorresti dare ai genitori all'ascolto? Guarda, la prima cosa è, dato che gli strumenti che in questo momento offre la scuola sull'orientamento sono un po' spuntati e dipendono più che altro dalla buona volontà di alcuni insegnanti che si prendono a cuore le situazioni dei ragazzi e cercano di orientarli parlandone anche con gli insegnanti, io tornerei con un po' di buon senso, o mi attesterei con un po' di buon senso, a quel buon vecchio metodo che sempre le migliori sono le mamme. Le mamme hanno una capacità di così quasi da detective di intercettare quegli insegnanti che possono essere decisivi per la vita dei figli. Tutti noi sappiamo che nel nostro percorso scolastico abbiamo dimenticato l'85% dei nostri insegnanti, invece ce ne ricordiamo uno o due che in qualche maniera ci hanno un po', tra virgolette, salvato la vita. Perché? Perché sapevano guardare un po' al di là di quello che avremmo fatto strettamente nella loro materia e si sono preoccupati di mettere a programma non solo il programma, ma la vita dei ragazzi. Io ho avuto due insegnanti così ed è stato decisivo, e rispetto a tutti gli altri appunto questo mi è bastato. Quindi quello che direi, siccome oggi non si può più scegliere una scuola per tradizione, dici quella scuola ha una buona nomea e quindi lo iscrivo lì, sarebbe interessante riuscire a bypassare quello che la scuola dovrebbe fare, cioè una valutazione della capacità degli insegnanti, ma non lo fa in questo momento, e capire come, attraverso informazioni, parlare con il dirigente scolastico, con i colleghi, con gli insegnanti di questa scuola, gli open day servono a poco, capire gli open day servono a poco, sì, bravo, non poteva essere più chiaro. Ecco, sarà felice mia sorella che così dice, mi tocca l'open day, vado o non vado, adesso gli dirò. Alessandro D'Avenia dice, no, che stare a casa. Che all'open day io li faccio pure, ma all'open day siamo tutti belli, certo. Come le foto di Facebook, siamo tutti molto più belli di come siamo nella realtà. E invece bisogna vedere. No, tu sei bello anche come tu, per te questo non vale, perché tu sei bello anche nella realtà, Alessandro. Ma nella, guarda, foto di Facebook e nella realtà. Come convincerlo a tornare a cuore e denaro. Questo lo dirò alla mia mamma, è tutto merito suo e di mio papà. E quindi non lo so, la cosa da capire è come fare a intercettare quegli insegnanti che possono accompagnare il figlio al di là della materia. Sono quelli che devono dedicare quei 10 minuti al ragazzo fuori dell'ora, e uno lo sa, questi insegnanti. Certo, che poi stavo pensando, Alessandro, leggendo anche i messaggi che ci arrivano da parte degli ascoltatori, se un ragazzo già con tutte le sue idee confuse tipiche dell'età deve pure affrontare un po' di discussione interna alla famiglia, Laura ci racconta: se tra i genitori le idee sono discordanti, mio marito considera valido solo il liceo, che mia figlia rifiuta, io invece come lei propenderei per un istituto tecnico. Qua No, questo è interessantissimo, perché chiaramente i genitori cercano di ripetere le scelte che hanno fatto loro. Non avendo più quell'età si trovano disarmati, come è normale nell'educazione di figli adolescenti, e questo papà che cosa fa? Dice: fai quello che è andato bene a me. La mamma forse è più in simbiosi con la figlia, la vuole proteggere da eventuali fallimenti, dice: no, andiamo sulla cosa che è vicino casa, andiamo sulla cosa che scelgono gli altri amici, così è più protetta. Qui bisogna mettersi nella stessa stanza con i due insegnanti di riferimento delle medie della ragazza, certo, e parlare tutti insieme. Ma se non facciamo questo, ma che orientamento facciamo? Solo fare dei test che ti dicono che attitudini hai, ragazzo? Che ce vuole questo? Cioè, non è che è così difficile, bisogna parlarsi, capire. Io ora ho alcuni ragazzi di prima e dopo 3 mesi vedete che alcuni scricchiolano. Sì. E allora dobbiamo capire se questo scricchiolare non avere ancora acquisito un metodo che è necessario al liceo, o se invece sono difficoltà oggettive che nascono da un orientamento non adeguato. Esattamente. Prima. Allora, io so che Alessandro D'Avegna, come tutti i professori, deve la campanellina, sì, esatto, deve rientrare in classe. Speriamo di averlo una volta, un'oretta tutto per noi. Grazie per essere stato con noi, Alessandro. Grazie a voi dell'ospitalità e alla prossima. Alla prossima. Grazie. Bello però avere un insegnante come Alessandro D'Avegna. No, ma poi la cosa sorprendente di Alessandro, che è così giovane. E anche quando da un insegnante così giovane ti arriva un esempio così importante, perché magari abbiamo ancora, non lo so, forse il pregiudizio che certi modelli debbano essere rappresentati solo da professori di un certo tipo, invece no, cioè, questa freschezza è, ecco, però bisogna quindi dei professori fidarsi e affidarsi al professore, parlare con loro. Invece ci sono dei genitori che risultano un po' piccati, ad esempio, certo, dei giudizi che gli insegnanti, certo, danno, come, no, per dei suggerimenti per l'iscrizione a scuola per il loro figlio. Mi hanno detto di fare l'istituto tecnico, invece mio figlio è uno da liceo, e questo tradisce un po'. Purtroppo in Italia c'è ancora l'idea che il liceo sia una scuola, no, e l'istituto tecnico una scelta un pochino, no, una scuola di serie B, cosa che invece assolutamente andiamo non è vera. Andiamo a parlare con le aziende oggi, ecco, poi vediamo di che cosa hanno bisogno. Sarebbe da lavorare su questa cultura. Non ci sono scuole di serie A e scuole di serie B, c'è la scuola adatta per noi. Indovinare, fare la scelta giusta è già un passo avanti. È importantissimo lavorare sui pregiudizi, infatti. Quello che consigliamo è cercare di informarsi sulle scuole possibili per nostro figlio, andare agli open day, ma non soltanto guardare i programmi scolastici, le ore, quante ore di materie di un certo tipo fanno e quali sono i programmi anche ministeriali. Ecco, e poi vorrei invitare, perché io ci sono già passata, ho già iscritto tante volte le mie figlie, ormai sono fuori, però noi genitori, io mi sono resa conto, tendiamo a mettere un po' delle etichette. Mio figlio non ha voglia di studiare, oppure è un asino di matematica, oppure non ce la può fare, figurati, oppure al contrario. Invece poi i ragazzi nel tempo cambiano, non è che siamo sempre, dottoressa Tazzioli. I ragazzi cambiano come cambiamo anche noi adulti, loro sicuramente cambiano in maniera più repentina, perché è un periodo molto concentrato, quello dell'adolescenza. Certo è che il cambiamento va accompagnato, va sostenuto. Certo. Ripeto ancora una volta, la funzione del genitore è quella di fare un po' da occhio esterno, di rimandare al ragazzo l'immagine che sta poi passando, quello che lui percepisce delle competenze, degli interessi e delle attitudini che il ragazzo esprime. Per cui la funzione genitoriale è proprio quella di rimandare al ragazzo un'immagine perché lui possa imparare ad avere più consapevolezza di sé. Insomma, quindi prima di fare questa iscrizione a scuola avete un mese di tempo per andare a digitare sul portale del Ministero 0, tutte le informazioni, le comunicazioni che dovete fare. Prendetevi magari un giorno in più, cercate di capire se con questo figlio avete ragionato fino in fondo su quelle che sono le sue vocazioni e i suoi desideri, se magari non li ha comunicati, no, esplicitamente alla famiglia perché teme magari un ostacolo, un giudizio, e quindi in sostanza aspettiamo, prendiamoci del tempo. Noi sì, perché insomma bisogna cercare l'X Factor di nostro figlio. Davvero? Eh? Va così, cioè, di moda adesso? Infatti. Cuore e denari. 8:20, prima campana, e spegni quella sigaretta. E migliaia di gambe e di occhiali di corsa sulle scale. Le 8:30, tutti in piedi, il presidente, la croce, il professore. E noi torniamo a scuola, continuiamo ad orientarci, stiamo pensando a che scuola iscrivere il nostro figlio, tutto fila liscio, ci sono pareri discordanti. 800 24 00 24, raccontateci se queste scelte le avete fatte negli anni passati e come sono andati, perché dagli errori degli altri non si impara mai, ma a volte può aiutare. Quindi vi aspettiamo per raccontarci anche che cosa, tornando indietro, non fareste più. In linea con noi abbiamo una ascoltatrice che... D'eccezione! Vero? Si è candidata ad intervenire in diretta, ci fa molto piacere, segno che l'avevamo stimolata e quindi ha pensato bene di esprimere il suo pensiero. Salutiamo Tata Lucia, ciao Tata Lucia! Buongiorno carissimi! Ma che bello! Ecco, bellissimo, sì, perché io naturalmente torno alla scuola primaria, ai miei piccolini. Sì. È lì che si forma l'entusiasmo per la scuola. È lì proprio la maestra o il maestro che tirano fuori, educano, cioè tirano fuori la personalità del bambino, del ragazzino. Un bambino che finita la scuola primaria è entusiasta, è curioso, vuole fare, ha imparato a fare, sicuramente sarà molto più pronto ad andare avanti a scegliere. Fa conto che io ho tre figli, tutti e tre i miei figli alla scuola primaria li ho spostati di scuola, perché non mi andava, perché vedevo che uno si era intristito, che quell'altro veniva giudicato male per la sua iperattività che non era capita. Cioè è proprio la scuola primaria molto importante. Per cui io invito sempre i genitori, invece sì, adesso questa iscrizione via, ma andate a vedere, conoscete i maestri, conoscete i bambini che frequentano quella scuola e vi renderete conto se è un posto stimolante. Perché come si dice, Tata, figli, chi ben inizia, chi ben comincia, metà dell'opera. Certo, ecco, certo. E quindi vale anche per la scuola prima delle elementari. Senti, Tata, però ti facciamo lavorare. Più avanti, Tata, Tata, scusami se ti interrompo, ma dato che ci hai chiamato, noi ti mettiamo subito al lavoro, perché certo, abbiamo in linea con noi Stefano, ci chiama da Brescia. Buongiorno Stefano, sì, benvenuto. Buongiorno a tutti. Ci racconti? Buongiorno. Ascolti, io parlo dalla mia esperienza, avendo avuto due genitori ex insegnanti elementari, io stesso stato un alunno, avendo avuto due nipoti che hanno frequentato le scuole, sì. Io ho una scarsa valutazione della scuola italiana, perché se mi riaggancio al vostro ospite che ha preceduto me, l'importanza della scuola primaria sarebbe non tanto quello di insegnare a memoria le cose ai bambini, ma dargli le basi, tipo tabelline, italiano, cose del genere, che nessuno ormai sa più. Sì. Per poter affrontare poi quindi le scelte successive. Sì, ma Simone, lei aveva anche una domanda? Perché abbiamo tanti ascoltatori, certo, la ringrazio. Perché la scuola non svolge la sua attività di capire il bambino, capire le sue potenzialità, i suoi interessi e veicolare la scuola, il bambino verso gli studi e il lavoro che dovrà fare un domani? Allora, sentiamo Tata Lucia, che cosa chi è che è caduto quando riesco a capire. Tata Lucia, sei ancora con noi? Sì, io sono qua. Allora, io devo dire questo, perché la scuola non lo fa? Purtroppo devo dire che ci sono pochi insegnanti disponibili, sono più preoccupati a volte dell'istruzione, della tecnicità dell'istruzione, che proprio dell'educazione del bambino, perché quella è proprio educazione, tirar fuori le potenzialità del bambino, è molto importante. Quindi il tuo messaggio, Tata, prima di salutarci, agli genitori: osservate bene il vostro bambino anche nei primi anni di scuola, se è cambiato il suo carattere, se è stimolato, se è curioso. Queste sono tutte degli indicatori del suo benessere in questo percorso. Deve essere felice di andare a scuola, deve essere sereno, deve essere curioso e sempre, diciamo, stimolato dalla scuola. Io mi ricordo che mio figlio secondo, detto Matteo il terribile, ormai mi uccide perché dico sempre questa cosa qui. Sì, poi per radio, voglio dire, non lo dici a due persone così, per radio, va bene, ecco. Quindi allora, quando è andato alla scuola media ed era un iperattivo, io alla scuola elementare ho avuto dei problemi per la sua iperattività, eccetera, mi ricordo che io l'ho scritto a una scuola media dove facevano il tedesco, madre crudele, già quello è così. Beh, è tornato a casa dopo il primo giorno di scuola e mi ha detto: che cosa interessante. Vedi, per me è stata la qualifica. C'era un bambino di quell'età, infatti. Capito? Tata, noi abbiamo per scherzo pensato di salutarti, perché in realtà ti vorremmo sottoporre anche il caso e la domanda di Simone da Prato, che forse attanaglia molti genitori, perché adesso questi bambini, insomma, sembra che vadano stimolati da prestissimo, e quindi quanto prima li si introduce a scuola meglio è per qualcuno. Simone è proprio stretto in questo conflitto in questo momento. Benvenuto. Sì, buongiorno a tutti. Senti, io ho una bimba che fa 5 anni ad aprile e siamo con la mamma, siamo in lotta, perché secondo me sarebbe bene iscrivere la famosa primina, un anno prima. La mamma invece, secondo lei, è prematuro e insomma tutti i discorsi così. E quindi siamo in un dubbio, un dilemma irrisolvibile al momento. Volevo capire cosa ne pensava. Anche perché bisogna iscriverla entro il 15 febbraio, per cui effettivamente questa, tra virgolette, discussione familiare va gestita in tempi brevissimi. Tata Lucia, in quanti genitori probabilmente pensano la stessa cosa in questo momento? Certo, tanti bambini sono nati nella prima parte dell'anno. Io diciamo che io ho 3 figli nati tra dicembre e gennaio, quindi già piccoli rispetto all'età canonica dai 6 anni a settembre, e sono sempre comunque andati a scuola perché erano già inseriti anni fa nel fatto che potevano andare a scuola. Aprile mi sembra, insomma, un bel po' di tempo dopo, anche perché io sono dell'idea che quando uno vuole e si sente di recuperare, recupera comunque nel corso della vita. Io mi ricordo, io sono un esempio vivente, perché io sono di febbraio, sono andata a scuola a 6 anni ampiamente compiuti, in quarta elementare la maestra mi ha fatto fare l'esame di quinta. Però vedi, questa cosa di Tata Lucia non lo sapevamo, si è fatta, ecco. Anche vedi, quindi al nostro amico Simone dici: temporeggiate, insomma, scrivete. Io direi fate tranquillamente così, fate i bravi, vedete, il bambino può fare, se è contento, felice, il bambino rende moltissimo e recupera. Non sforzatevi di capire voi se dovete spingerlo, questo fatto di spingerlo poi nella vita si seguono dei percorsi che un altro anno di materna per la piccolina di Prato. Grazie, vabbè. A Tata Lucia, un abbraccio, Tata, a presto, buon anno, arrivederci, grazie ciao. A tutti. Lei che avrebbe detto, la nostra dottoressa Tazzoli? Io mi sento di dire, così dico ai miei genitori, che non c'è una regola precisa valida per tutti per l'anticipo scolastico. La legge lo permette, chi è nato nei primi 4 mesi dell'anno può anticipare le elementari. do sempre il consiglio di chiedere il parere alle insegnanti della scuola materna, perché loro conoscono il bambino da un punto di vista scolastico, cioè sanno come si comporta nel contesto scolastico. Con altri, lo guardano con altri occhi. Tra l'altro, proprio a proposito di tutte queste anche eventualmente necessità di cambiamento che si manifestano, Francesca Barbieri, stavamo prima chiacchierando a microfoni spenti dell'eventualità che una volta completata l'iscrizione sul portale del MIUR, ecco, si cambi idea. Abbiamo terminato, abbiamo inoltrato tutti i dati, siamo tutti contenti. A marzo, ad aprile, il nostro figlio ci dice: sai che c'è, non sono più tanto convinto della scelta che ho fatto. In che modo si può cambiare idea anche concretamente poi con la scuola? Allora, se si cambia idea prima che sia chiuso il termine per inviare le domande, quindi prima del 15 di febbraio, è possibile cancellare la domanda, ma non si può fare online, bisogna contattare la segreteria della scuola. Se invece viene fatto dopo, è un pochino più complicato, ma comunque si può fare, è necessario contattare la scuola, la nuova scuola prescelta, e quindi chiedere un appuntamento e discutere la possibilità di iscrivere il proprio figlio in questa nuova scuola. Tra l'altro c'è un aspetto che non abbiamo forse sufficientemente ricordato, magari non so se abbiamo generato qualche confusione fra qualcuno: l'iscrizione della quale stiamo parlando questa mattina vale per la prima elementare, prima media, prima superiore, non è che tutti gli anni tutti i genitori devono rifare l'iscrizione se un bambino deve andare a scuola in seconda, in terza e quant'altro. Un ripetente cosa deve fare? E un ripetente viene iscritto d'ufficio. Perfetto. Esattamente come per i ragazzi che si iscrivono alla seconda, alla terza, alla quarta, alla quinta. È automatico, viene fatto dalla scuola. Quindi se la si famiglia... sceglie naturalmente la medesima scuola, se si vuole cambiare, in questo caso va reimpostata l'iscrizione. Nicoletta. Farai un saltino a Reggio Calabria, se facciamolo, ti piace. Certamente, quando sai che nei posti caldi a noi piace andare sempre. Ciao Fabio, Fabio, benvenuto. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Sì, io sono un insegnante, insegno al liceo classico di Cittanova in provincia di Reggio Calabria, tra l'altro è l'unico liceo classico della pianeggia Tauro, quindi insomma diciamo una forte tradizione. In questo momento naturalmente tutte le scuole, tutti gli insegnanti, gli agenti scolastici sono impegnati in quello che io chiamo una sorta di calcio mercato della scuola, perché calcio mercato studenti mercato, insomma l'intento è quello di accaparrarsi gli studenti indipendentemente dalla loro preparazione, perché la legge del dimensionamento impone che la scuola, per non essere accorpata, per esempio nei nostri licei, debba avere 600 studenti. Quindi poco si guarda all'aspetto didattico educativo, e anche da parte nostra si cerca di convincere quasi gli studenti a venire nella nostra scuola. Io mi metto anche, vesto i panni anche del genitore, perché quest'anno avrò la scelta della mia figlia, la grande, dalla scuola media inferiore passare alla scuola media superiore, e spesso mi trovo anche dall'altra parte della barricata a vedere le cose anche in maniera, quindi gli open day e l'orientamento, sembra che quasi che le scuole vendano un prodotto, no? Dimenticando che ci troviamo di fronte a persone che sono in formazione. E mi viene da pensare a quello che diceva il grande pedagogista Danilo Dolci, no? I ragazzi diciamo crescono se sono sognati, se noi invece sono sognati insieme diciamo a una comunità educante, non solamente ai genitori che vogliono magari il figlio che faccia venire la professione sostituendosi ai loro sogni, quindi andrebbero di più ascoltare i ragazzi. Scegliere liberamente, mettere le condizioni, scegliere liberamente in modo tale da poter accompagnarli e non solamente spingerli verso magari la realizzazione di un sogno che spesso è solo quello del genitore, non è quello del ragazzo, che naturalmente a 13-14 anni ancora non ha tutti gli strumenti, gli istituti, esperienze, sapere quello che vuole fare nella vita da un punto di vista. E quanto diceva Alessandro D'Avenia prima? L'altro punto di vista è quello appunto che le scuole si pongono solamente per rastrellare numeri, e quindi spesso questo poi per mantenere quei numeri la didattica spesso se voi guardate gli indici delle bocciature, le sospensioni diciamo del debito, che il vecchio insomma la vecchia famosa materia a settembre di una volta, sono calati drasticamente, perché ognuno non vuole perdere i numeri, non vuole essere accorpato ad altre scuole. Io ci aggiungerei anche un altro problema, Fabio, per concludere un po' tutto il precariato che ha riguardato il mondo degli insegnanti in questi anni. Adesso c'è la grande questione della stabilizzazione di migliaia di insegnanti, che pure sarebbe importante per dare stabilità all'insegnamento e quindi anche all'approccio appunto con i ragazzi. Forse anche questo conferisce poi sicurezza nelle scelte da fare. che... Allora, no, stavamo pensando, in effetti Fabio dice è una forma di marketing, noi abbiamo tagliato più la nostra trasmissione pensando, io sono convinta di questo, che l'orientamento sia in fondo una ricerca, come i talent di successo ci insegnano, per orientare, quindi fare la scelta giusta, occorre scoprire l'X factor di ognuno di noi. Allora, come possiamo scovarlo e farlo uscire in ragazzi preadolescenti e adolescenti delle scuole medie e superiori? Ci aiuta il professor Lucchini, buongiorno, linguista dalla palestra della scrittura. Buongiorno. Che bello. Buongiorno, buongiorno a voi. Rapidamente si chiederanno i nostri ascoltatori perché un linguista dovrebbe dare consigli su come si conduce un buon orientamento scolastico, ma la risposta noi ce l'abbiamo, professore. Ma la proviamo, innanzitutto dare consigli è una cosa un po' troppo impegnativa, forse può dire un'opinione. Sì. Il linguaggio, l'oggetto di un linguista è il linguaggio, il linguaggio è comunicazione. Anche l'orientamento è comunicazione, anche l'ascolto, sentivo dire poco fa i ragazzi andrebbero più ascoltati, è comunicazione, il marketing è comunicazione, la relazione che c'è tra gli studenti e gli insegnanti, tra gli studenti e i genitori è comunicazione, la reputazione che i ragazzi si portano appresso negli anni è comunicazione. E poi diciamo che lo studio del linguaggio è qualcosa ormai un po' più ampio della grammatica, certo. Rivela degli aspetti sul comportamento, sulle capacità, sulle le attitudini, quindi anche, non so se chiamarlo proprio il factor, ma qualcosa del genere. Ecco, ci aiuta magari a scovarlo in questi, facciamo una riflessione a voce alta, una specie di memo per i genitori all'ascolto. Come si fa a scovare questo X factor nei ragazzi che stanno facendo questo passaggio così importante? Ci sono dei suggerimenti, delle indicazioni facili? Proviamoci. Sì. La parola ascolto rischia di sembrare un po' filosofica, però invece è molto facile, molto concreta. Ascoltare i ragazzi, ascoltarli nelle loro inclinazioni, ascoltarli e osservarli. Cosa che per un genitore è difficile, per un insegnante è difficile, però credo che sia l'impegno forte. Ricordo tempo fa, lavorando con degli insegnanti, una provocazione che fece un preside, tra l'altro, e lui mi disse: io non posso farlo, purtroppo non posso farlo, ma se potessi farlo renderei obbligatoria per tutti gli insegnanti una settimana di gita, cioè di attività fuori dalla scuola. Sì, perché stai a contatto proprio con il ragazzo e scopri delle attitudini, no? Scopri delle attitudini che a scuola è veramente molto difficile manifestare, scoprire, perché sono attitudini. Sono proprio attitudini, non sono abilità. Le abilità si manifestano in un contesto: l'abilità della traduzione, l'abilità del calcolo, l'abilità dell'esercizio fisico, della logica. Invece le attitudini si scoprono, cioè l'attitudine alla leadership, per esempio, il ragazzo che sa trascinare gli altri, il ragazzo che sa ha un istinto alla collaborazione con altri, a ricercare quello che gli serve, l'intuito, ecco, sono veramente dei geni che raramente a scuola, nelle attività di aula, sono facili da scoprire. Fuori, quando si piantano delle tende o si osservano i ragazzi davanti a un quadro, davanti a una mostra o al ristorante o nell'autogrill, è più facile. Grazie al professor Lucchini, quindi occhio ai nostri ragazzi anche quando fanno altro, e non leghiamoli solamente al voto o quello che pensiamo essere le loro attitudini, va bene di matematica, va male di italiano, guardiamoli, ascoltiamoli, vediamo come si muovono, come parlano, come si relazionano con gli altri. C'è il bellissimo caso dei genitori che hanno questa figlia che vuole fare il liceo teatrale a Torino, loro formazione completamente diversa, laurea in Bocconi, una ragioniera in casa, e questa figlia che invece ha questa vocazione, come dire, artistica, che loro vogliono assecondare, sono un po' indecisi, però in realtà portati ad accontentarla. Faranno bene, ci chiedono, dottoressa? Io credo che come genitore facciano bene, perché delegano la responsabilità della scelta alla propria figlia. Poi fare una scelta drastica è sintomo anche di una alta motivazione da parte del figlio per perseguire questa scelta e andare avanti nella scuola e nella scelta che si è fatto. Per cui io credo che abbiano fatto bene. Coraggio allora, ce la si può fare. E infatti, e si può sempre cambiare poi nella vita adesso, e si non può, è che sì. Certo, noi come comunque dice siamo detto, sempre qui. Come è che dice il detto? A volte si vince, a volte si impara. È vero. Bello. Mi piace. Grazie. A domani. A domani, buona giornata a tutti.